fatti di tanti colori, tanti simboli. Non c'è spazio, non c'è espressione, schiavi di un capo come il resto, simboli divise. Non vi confondete, li state indossando. Il fragore di un grido di battaglia, il nemico un simbolo diverso. Massacriamolo, incendiamo il suo tempio. A fuoco le altrui espressioni di vita, libri e culture, vive solo la causa. Nazismo nell'anima, ma i vestiti sono cambiati con una identità, santa identità. Voglio una nuova apocalisse santa, distruzione divina, ripulisci il mondo dalle tardigrade. Affermazioni, se non interverrai te, lo farò io, lo farò io. Fango nella divisa, sputano sangue, siete controllati, un cecchino vi sta mirando. Potete marire in un qualsiasi capriccio. Un uomo libero non ha bisogno né di leggi né di autorità. Ma la testa lo diceva, ma la testa lo diceva, ma la testa lo diceva. Enrico Malla a testa lo diceva, ce lo diceva nel 1893. Enrico lo diceva, ce lo diceva nel 1893. 1893, 1893. In onore di Enrico Malla a testa, 1893, lui credeva che l'uomo è libero, non ha bisogno né di leggi né di autorità, né di autorità. Enrico lo diceva, ce lo